quella sera dentro a un bar a soddisfare la sua sete. Si sfaldano il ricordo, raccontarlo mi compete. Disfarto nel suo corpo neanche l'ombra. Scarso quando scorgo incrocio gli occhi suoi coi miei che m'affonda. Sponda poi birillo e palla in buca. Sedetti a fianco lei beveva whisky e coca. La sua capigliatura, il corpo da paura. La sua faccia sicura, nessun torto alla natura. E si capisce, si fa un sorriso e dopo un po' si disquisisce. A poco cresce un gioco che già si intuisce. E non finisce fino a che sto bicchiere pieno fluisce. Se stai a parlar con me non lo bevo. Parla di sé, lo sgamo di sensi. Sparla di sé, citando i miei sensi. E intanto ci pensi, a quanto è fusa vorrei da questa gatta. Nel bar luce soffusa e musica pompata. Si parla assieme del meno e del più. Gli sguardi sono insieme di sta pianta che va su. La butta sullo scherzo è santa quanto Belzebù. E astuta sta al gioco quanto ci stai tu. Lo sa che è bella e provoca e proroga. La sua è una tecnica ma stella è come sa timbolica. La supersonica potenza femminile che forse è l'unica che ti fa fare ciò che non sai dire. Giorni dopo andammo a letto, ma qui non parlerò del fatto, per rispetto metto, senza un difetto, il copione era perfetto, lo ammetto, la situazione era di affetto, puro affetto schietto, c'è suo profumo nel mio assetto, nasale, l'effetto fumo del ricordo nel mio assetto mentale. Don't say nothing, just give it up.